la vita mia è così strana, è uscita, non mi ha detto niente, non è più tornata. Mi ha lasciato un biglietto sopra il tavolo con scritto vado a vivere col diavolo. Cavolo, come faccio il futuro? Me lo immagino pieno di mostri, come se mi fossi calato un acido. Lo sfondo lo vedo nero come Caravaggio. Casa mia lo scatafascio, ma mi dico coraggio. Segno croci sopra i muri, mi nascondo dentro gli angoli bui. E tu chi poemia, ci vola fantasia. Se piovo, se c'è il sole, mi chiudo e scrivo poesia. Ma cosa resta? Cosa fare? Dimmelo tu. Dopo che ho finito le mie incombenze, cosa sono? Se non il fantasma di ciò che ero come resi e l'emo silenzio. Magari avessi la mia titrice d'anime, cerco un clima più salubre. Ciao, cerco pace intorno a me, ma di sti tempi mi chiudo in casa per fare studi sull'isteria, fare studi sull'isteria. Spiegami perché, spiegami perché questo male non va più via, no, non va più via. La rabbia che porto non è un fatto buono, te ne accorgi dai miei occhi, non serve che tu sia un genio. Io mezzo scemo, vivo nell'intermezzo in cui tu sbrocchi e diventi cattivo. Non serve scrivere vagonate di testi, raccontarvi i miei fatti per lasciarvi distrutti, di modo che abbiate pietà. Non voglio vedervi depressi, per carità perplessi. Manco vivo una vita a metà, da sempre sono stanco, da sempre mi fotto un cazzo della gente. Per strada non ti saluto, non ci sono. Se vuoi il mio aiuto diventi mio amico, finisci in un tambuto eremita. Per scelta, non perché era l'unica via, piuttosto che starmi tra la vostra merda, mi chiudo in casa e faccio studi sull'isteria. Magari avessi la mia titrice d'anime, cerco un clima più salubre. Cerco pace intorno a me, ma di sti tempi mi chiudo in casa per fare studi sull'isteria, fare studi sull'isteria. Spiegami perché, spiegami perché questo male non va più via, non va più via.